Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e buona giornata a tutti coloro che in questo momento sono in vendemmia o stanno andando a vendemmiare, perché oggi cominceremo così un giro di itinerari che ci porterà laddove c'è vendemmia, ma terreni, anche territori vocati a darci anche altro, il paesaggio, darci dei prodotti, dei ristoranti, sicuramente anche dei personaggi, delle storie e delle tradizioni. Quindi faremo un lungo viaggio. Abbiamo scelto di cominciare da un territorio che sicuramente è famosissimo nel mondo, Chianti, chiamato dagli inglesi o dagli anglosassoni appunto Chiantishire, ma questo non lo amano molto nel Chianti, giustamente, perché vogliono mantenere il loro nome. Bene, questo territorio è notissimo per un vino che si chiama Chianti, quindi un territorio che coincide addirittura con il nome di un vino, succede solamente con lo champagne, un altro diciamo aspetto di questo genere. Ebbene, il Chianti non è solamente terra di vino, ma è anche una bellissima terra da visitare, con stupendi paesaggi, borghi veramente molto interessanti. Ecco, noi andremo un po' a raccontare questo con i nostri ospiti, ma anche con voi, cari radioascoltatori, chi volesse segnalarci appunto dei luoghi, dei prodotti, dei racconti di vendemmia. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Bene, questo viaggio lo cominciamo veramente in maniera, devo dire, inedita e forse molto originale. Lo faremo in bicicletta, sì, proprio in bicicletta, perché abbiamo con noi Carlo Travagli, che è un enologo, ma anche ideatore di questo viaggio in vendemmia in bicicletta. Buongiorno Travagli. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma come l'hai venuta questa idea, Travagli? Ma questa idea l'ho partorita un anno e mezzo fa circa, dove andando in bici nelle zone anche dove lavoro con la mia mountain bike, praticamente ho detto: ma perché non dare la possibilità agli appassionati di vino, a tutti coloro che piace la natura, di unire le due cose, la bici e quindi anche un buon bicchiere, vedere da dove nasce, proprio le radici, da dove prende vita questo prodotto. E la cosa, diciamo, è piaciuta, ecco. Senta, ma ha avuto successo appunto questa cosa? Ha dei proseliti? Proseliti ci sono, e la cosa, diciamo, sta avendo un buon riscontro, sinceramente. Ora, io quest'anno ho iniziato un po' così, quasi per ridere e scherzare e mettere su questa attività, che pensavo appunto in vendemmia di dargli il suo apice, il suo culmine, e anche perché la vendemmia offre un momento, diciamo, per me emozionante, dove chi viene e lo vede, lo vive, percepisce proprio l'essenza del vino, l'essenza di questo territorio, è l'unione, proprio è il parto, lo definirei. Senta Travagli, ma diciamo, quali sono, ecco, ci indichi dei luoghi importanti, lei appunto che l'ha anche girato in bicicletta, per i nostri radioascoltatori, uno che volesse venire nel Chianti, un posto magico appunto durante la vendemmia? Ma un posto magico durante la vendemmia sicuramente tutta la zona del Chianti storico, come i comuni più importanti, Castellina in Chianti, Radda, Gaiole, Panzano, sicuramente sono le zone più suggestive in assoluto e anche le più famose, però ce ne sono anche altre, come appunto il Montalbano, i Colli di Cerreto, il San Miniatese, le zone di San Gimignano, che sono delle zone poi affiancate, contornate da territori meno famosi, fino ad arrivare al mare, praticamente le zone di Volterra, Montecatini Val di Cecina, Rosignano, è una zona abbastanza vasta che cambia in poco spazio i suoi aspetti e offre territori praticamente completamente diversi. Certo, il Chianti è quello principale che ho descritto all'inizio, quelle sono le zone del Chianti storico, ecco. Bene, io la ringrazio. Travagli, qual è il modo per mettersi in contatto con lei, chi volesse fare questo giro in bicicletta in vendemmia? Chi vuole mettersi in contatto con noi basta vada sul sito internet www.tuscanywineandbike.it o può visitare anche la nostra pagina Facebook. Bene, grazie Carlo Travagli e buona bicicletta. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, ora andiamo in una notissima macelleria del Chianti. Devo dire che il Chianti ha una serie di macellerie molto ma molto importanti. Andiamo a Greve in Chianti, dove in piazza questa mattina, di solito al sabato mattina c'è il mercato, ma oggi ci saranno i produttori di vino appunto del Chianti, che sentiremo poi. Ma buongiorno a Stefano Bencistà. Buongiorno. Stefano, allora tutti parlano del Chianti come vino, ma il Chianti è anche salumi, è anche carne, carne fianina e non. Allora, dacci qualche specialità, parlaci di qualche specialità che si possano trovare. Allora, trovare prima di tutto, direi in assoluto, è la bistecca, cioè bistecca alla fiorentina. È il mio negozio, da sempre è il negozio della bistecca alla fiorentina, e ce ne è quante volete. Poi, come sai, siamo produttori di salumi ormai da 300 anni, io sono l'ottava generazione, si fa ancora i salami come prima. Se prima era un po' buoni, sono poco buoni ancora. Quindi tu dici si fanno alla stessa maniera, insomma. Si fanno, noi il salame grevigiano e la finocchiona, e diciamo il salame grevigiano è 300 anni e si fa sempre uguale, sale e pepe, budello naturale, è quello che vendiamo più di tutti. Poi c'è il cinghiale che va molto per i turisti, perché ma il cinghiale è 30 anni che facciamo i salami di cinghiale, perché prima cinghiali non c'erano, ora ce ne sono troppi, ma prima i cinghiali nel Chianti non c'erano, ora ce ne sono troppi. Senti Stefano, perché si chiama finocchiona? Si chiama finocchiona, vorrei dire anche un'altra cosa, perché tutti vivono della finocchiona. La finocchiona è nata a Greve in Chianti, l'hanno inventata a Falorni. Bene, siamo... perché prima c'era questa storia, no, della finocchiona. Primo, perché mettiamo il seme di finocchio selvatico che cresce sui greppi dei campi, e i contadini sempre a settembre vengono a vendermi questo finocchio, e a questo sapore di finocchio lascia la bocca piena di grasso e di finocchio, perché la finocchiona non è un salume magro, è un salume grasso, morbida deve essere. Poi c'è questa storia che commerciali. Guarda, ti fermo perché ora passiamo la linea alla regia per le strade, per sapere cosa succede nelle strade, ma poi torneremo e mi racconti questa storia. A fra poco, rimani con noi e rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio nel Chianti. Bene, vorrei ricordare il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, perché vedo molti sms che ci dicono dove sono a vendemmiare, ma ancora non ne ho ricevuto nessuno dal Chianti, quindi magari qualcuno che fosse nel Chianti ci chiami, ci racconti cosa sta succedendo. Bene, torniamo a Stefano Bencistà della macelleria Falorni di Greve in Chianti. Stefano, ci stavi raccontando questa storiella molto bella che ci riporta al vino, perché so che ci riporterà al vino del perché si chiama finocchiona. Allora, si chiama, dicono che questa storia, che no, anticamente, diciamo 50, 60, 70 anni fa, i contadini che avevano nella cassaforte, perché quando ammazzavano il maiale per loro era la cassaforte per tutto l'anno avere dei salumi in cassa, facevano questa finocchiona, che quando veniva il commerciante a comprare il vino, prima di comprare il vino e prima di assaggiare, gli davano delle belle fette di finocchiona, così si impastava la bocca di finocchio e di grasso, e il vino, anche se non era proprio come doveva essere, glielo vendeva uguale. Da cui il verbo infinocchiare. Infinocchiare. Senti Stefano, infinocchiare. Ti fermo perché c'ho un sms che dice: ma non è vero nulla che la finocchiona toscana è nata nel Chianti, è un salame comune nato contemporaneamente in tutta la Toscana, in particolare nella zona della Bassa Maremma, a causa della tassa sul sale introdotto nel basso medioevo. Questo è un radioascoltatore che immediatamente ti contraddice. No, no, no, tutto mi possa contraddire. In basso medioevo la finocchiona non è 300 anni che si fa, la finocchiona sarà 200 anni che si fa, ma anche meno. E poi non è vero niente, è nata a Maremma, è nata da tutte le parti. La finocchiona è nata a Greve. Bene. O nei dintorni di Greve. Io sono di Greve, Dio è nata a Greve. Bene. Poi tutti gli altri ci hanno copiato. Allora invitiamo i nostri radioascoltatori su questa disfida, la disfida della finocchiona. Vediamo chi vuoi che interrà. Grazie Stefano. Prego, a presto. Venite bene a mangiare la finocchiona a Greve. Bene, ora andiamo. Ora abbiamo parlato di salame, prima abbiamo parlato appunto di vendemmia, ora parliamo anche di cibo, perché il Chianti, come dicevo, offre grandi prodotti, ma offre anche tantissimi locali. Bene, andiamo da Emi e ecco, c'è niente, è caduta la linea, allora dobbiamo soprassedere, leggiamo qualche altro SMS, leggiamo e poi ecco, qualcuno mi dice che proprio ieri siamo stati all'Expo del Chianti Gallo Nero a Greve in Chianti, bene, anche questo a Greve in Chianti. Allora, continuiamo poi ancora, ci parlano della vendemmia nel Soave, della Castellina Piemonte, noi torniamo in Toscana comunque, andiamo a incontrare Ilaria Anichini che è direttore agronomo della fattoria di Montemaggio. Se non erro, Ilaria, lei è a Greve in Chianti? Buongiorno, sono a Greve in Chianti. Ecco, ci racconta cosa sta succedendo a Greve in Chianti con i produttori, appunto voi produttori del Chianti Classico. Ecco, noi produttori del Chianti Classico siamo in piazza Greve, in una festa storica della zona del Chianti Classico, e ogni azienda, chi vuole partecipare della zona, espone i propri prodotti e noi li facciamo assaggiare, i nostri vini, insieme anche al pane e olio e a dei prodotti locali di macellerie, per farli apprezzare meglio. Ecco, Ilaria, volevo chiederle, ci racconti un po' come sta andando la vendemmia? Allora, noi siamo ancora in attesa del grande Sangiovese, che sarà maturo a metà ottobre nella nostra zona, perché noi siamo Montemaggio e Arrada in Chianti, quindi in una zona molto alta. Per fortuna abbiamo ancora davanti un bel periodo, è stata un'annata molto calda, però senz'altro caratterizzata da una piccolissima produzione, cioè la produzione sarà veramente limitata, però credo di grande qualità. Bisogna vedere la stagione come va, ma per il momento questa pioggia che è venuta e adesso di nuovo il caldo preannuncia una bellissima annata, però molto piccola. Quindi molto piccola, quindi una riduzione di quantità, ma forse con i tempi che corrono forse è meglio, no? Beh sì, infatti non tutto il male viene per nuocere, poi naturalmente dipende dalle zone, ci sono zone che hanno patito un pochino più il caldo, le zone di Radda essendo più alte probabilmente hanno sofferto meno, però comunque la qualità sarà alta e una piccola riduzione non è un male, ecco, secondo me. Bene, rimanga con noi, sentiamo, ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Abbiamo parlato appunto, stavamo parlando appunto di cibo, andiamo ora da Emi Faviani che è titolare del ristorante Chiasso dei Portici a Radda in Chianti. Buongiorno Emi. Buongiorno. Volevo chiederle quali sono i piatti della tradizione chiantigiana? Allora, i nostri piatti logicamente sono la ribollita, facciamo gli gnudi, ricotta e spinaci, facciamo il cinghiale in dolce forte, che non viene fatto praticamente più da nessuno, è una vecchia ricetta che abbiamo ripreso, facevano la lepre, facevano la lingua, noi invece abbiamo fatto il cinghiale per esempio. Poi facciamo delle belle tagliatelle, le pappardelle, facciamo... Senta, torniamo un po' indietro, gli gnudi, spieghiamo ai nostri radioascoltatori cosa sono gli gnudi. Gli gnudi sono praticamente un impasto fatto con la ricotta, logicamente di pecora, degli spinaci freschi, saltati, poi viene fatto questo impasto che viene fatto delle palline, degli gnudi proprio, perché non sono vestiti di pasta. Ho capito. Vengono buttati in acqua, fatti bollire qualche minuto e poi si condiscono o con burro e salvia o con un bel ragù, basta. È una cosa molto molto semplice, però molto buoni, delicati, però sono tipici nostri. Ecco, lei ha parlato anche di pappa al pomodoro, di ribollita, che sono classiche, ma la gente le chiede ancora, sono piatti ancora che piacciono questi? Sì, la ribollita, senta, noi non si riesce a toglierla dal menù neanche quando è stato questi caldi con 40 gradi. volevo toglierla perché giustamente non è una cosa da estate, non riusciamo a toglierla, noi la vendiamo, riesco a trovare il cavolo nero per fortuna anche ora in estate, lo pago un occhio della testa ma non importa, però si riesce ancora a farla e la viene richiesta. Ecco, il cavolo nero è veramente, diciamo, il clou della ribollita, ma anche del minestrone di solito. Sì. Quale caratteristiche ha appunto di essere così importante? Perché viene fatto solo qui da noi, si trova solo qui da noi. Non riescono a trovarlo, almeno mi dicono, non riescono a trovarlo a Milano, non riescono a trovarlo a Napoli, non riescono a trovarlo sì da altre parti. Infatti io ho dei clienti che mi chiedono ricette, quando mi chiedono la ricetta io dico: se siete qui in zona, capitate da un fruttivendolo, compratevi un mazzettino di cavolo nero e portatevelo a casa. Senta, ma è vero che c'è bisogno di una gelata per avere il miglior cavolo nero? Sarebbe meglio, sì. Bene. Questo sarebbe il vero cavolo nero, perché logicamente è duro, con le gelate si ammorbidisce un po'. Bene, la ringrazio, a presto. E ora abbiamo parlato di ricette, però io vorrei parlare di una ricetta molto lontana, una ricetta, appunto la ricetta del Chianti, che fu inventata da un Ricasoli, e noi abbiamo con noi Francesco Ricasoli, che è uno dei discendenti che oggi guida appunto l'azienda Ricasoli. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide. Senta Francesco, questa ricetta, questa famosa ricetta del Chianti, ma è ancora valida? Io direi di sì. Bettino Ricasoli la buttò giù nel 1872, e dopo tanti anni di prove, sperimentazioni, soprattutto in vigna, provando tanti tipi di diverse varietà d'uva a bacca, soprattutto a bacca rossa, poi giunse alla conclusione che alla fine forse il Sangiovese, con un pochino di canaiolo e un goccio di malvasia bianca, ma solo per quei vini non destinati all'invecchiamento, era per lui la formula più giusta per un vino di quel tempo. Direi che siamo rimasti lì, perché il Sangiovese chiaramente ha dato un'impronta a tutto il territorio e la sta dando ancora. Teniamo presente che in questo arco di tempo i passi avanti naturalmente sono stati fatti, è cambiato il gusto, è cambiato il modo di mangiare e naturalmente anche di bere. La viticoltura e l'enologia hanno fatto passi da gigante, i miglioramenti clonali col Sangiovese sono stati colossali, e per cui non è più quel vino, diciamo, da bersi giovane, un po' scolorito, che peraltro era anche una forma, diciamo, di calorica per la maggior parte dei lavoratori nell'Ottocento, e anche direi forse per una buona metà del Novecento. Chiaramente oggi il vino è una bevanda molto più edonistica, e per cui va fatta con un approccio diverso, però alla fine il Sangiovese che si coltiva qui da noi in Toscana è unico proprio per il suo carattere particolare. Continua la polemica sulla finocchiona, ricevo ancora SMS che sono contrari a questa storia che ci ha raccontato Bencistà, tutti dicono che non è nata a Greve, lui ha fatto una difesa localistica, ma si capiva che era abbastanza provocatoria. Ma voglio chiedere a Ilaria Anichini, che è ancora con noi, appunto è nella piazza di Greve dove ci sono raccolti i produttori del Chianti, anche lei cosa ne pensa di questa ricetta così storica del Chianti? Beh, una ricetta che ha veramente fondato le basi del Chianti classico, e adesso che mai si sta tornando, c'è stata una grossa ricerca di una nuova ricetta per il Chianti classico con più o meno Sangiovese. Il Sangiovese deve essere la nostra base, è una varietà che in questo territorio appunto fa un vino terroir che è unico, nessuno lo hanno provato. Non so se lavorare all'estero, hanno provato in tanti posti a ricoltivarlo, ma le caratteristiche che riesce a produrre questo terreno è unico. Bene, grazie a Ilaria Anichini. Torno a Francesco Ricasoli e gli voglio chiedere questo. C'è stato un momento, un periodo di grande, come posso dire, allontanamento, leggero allontanamento dalla ricetta appunto del barone Ricasoli con Cabernet o Merlot. Mi sembra che si stia tornando un po' alla tradizione, o sbaglio? Sì, ma come diceva Anichini, anche il Sangiovese, che quando è buono e viene coltivato bene, come viene qui, non viene da nessun'altra parte. Per cui c'è una specie di DNA particolare che dà questa connotazione caratteriale al vino, che è unico. è stato impiantato in tante regioni del mondo, ma poi alla fine si sono arresi di fronte all'evidenza che questa è una cosa talmente particolare che alla fine piano piano, nonostante che sia un vitigno difficile da coltivare, difficile da vinificare, è un po' scontroso, in primavera parte troppo presto, quando ancora c'è il rischio delle gelate, la maturazione invece è tardiva, è delicato, con la buccia fine, insomma, per cui è difficile, ma quando viene bene è veramente unico, per cui sì, si sta tornando, anche perché ci sono stati tanti miglioramenti e maggiori conoscenze, soprattutto in vigna, la selezione clonale, anche qui a Broglio per esempio, stiamo facendo da tanti anni una bellissima selezione da degli antichissimi cloni biotipici, direi, di Sangiovese, che erano endemici qui a Broglio, e probabilmente, se tutto va bene, verranno inseriti nel catalogo generale delle viti delle varietà d'uva approvate dal Ministero dell'Agricoltura, per cui questo è anche un po' un ritorno all'antico, perché questi sono biotipi che erano in un vecchio vigneto che prima di essere estirpati abbiamo selezionato. Bene, la ringrazio Francesco Ricasoli, perché devo passare la linea alla regia. Grazie, a fra poco, torneremo fra poco. Grazie a tutti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo viaggio nel Chianti, tra vino, tra prodotti, cibi e ristoranti che ora andremo poi a visitare. Uno l'abbiamo già visitato e devo dire che devo leggere un po' di SMS, perché ne sono arrivati tanti di protesta. Chi protesta perché non parliamo della vendemmia nelle Marche, chi protesta perché non parliamo della vendemmia nella zona del Soave, chi protesta per la zona della Val d'Orcia. Insomma, non è che si possono fare tutti itinerari contemporaneamente, ma c'è anche ancora chi reinterviene sul discorso del salame della Finocchiona. Ha ragione, ben ci sta, dice Daniela da Viareggio. Quindi diciamo ci sono due opinioni molto contrapposte che intervengono. E poi ancora dice: il Chianti unico al mondo, non è dato dal sapiente dosaggio delle uve oppure dal terreno. La fortuna del Chianti è il suo microclima, cosa che in Italia è piena. Basti pensare alle arance clementine, al pistacchio di Bronte. Il terreno del Chianti non alluda nulla di speciale, ci scrive questo radioascoltatore. Speriamo che qualcuno dal Chianti appunto risponda. Numero verde 800 24 00 24, SMS 349-238-6666. Bene, noi però continuiamo il nostro viaggio e ora andiamo alla fattoria Corzano e Paterno di San Vito di Sopra, che produce anche vino, però noi con Antonia Ballarin, che è la coproprietaria di questa fattoria, voglio parlare di formaggi. Perché? Perché nel Chianti non ci sono solo i salumi e grandi macellerie. Vorrei ricordare anche il grande Dario Cecchini, irraggiungibile oggi perché ormai viaggia continuamente ed è negli Stati Uniti, quindi non potremo sentire le sue, diciamo, battute ritmate oppure le sue poesie. Ma dicevo di Antonia Ballarin, che produce formaggio, noto formaggio di questa fattoria, e chiediamo: ma com'è venuta l'idea appunto a San Casciano in Val di Pesa di produrre formaggi? Buongiorno Antonia. Buongiorno, buongiorno. Allora, io sono venuto qua negli anni 80 e mio zio aveva comprato delle pecore. Lei è tedesca, se non erro? No, io sono mezzo inglese e mezzo italiano. Ah, ho capito, allora ho sbagliato il pieno. Cresciuta a Londra, poi sono venuto qua appunto quando avevo 16 anni. E ho cominciato a fare il formaggio quando avevo 22 anni, insomma così. Ecco, c'è un amore particolare proprio per gli inglesi, per il Chianti, se non erro. Ah, questo sì, ma il mio era un amore per un uomo. Ah, bene. Bene, succede molte volte anche questo in realtà. Sì. L'ho interrotta, prego. Lui ha comprato queste pecore per tenere pulito un po' sotto gli olivi, intorno, insomma, nelle vignette, così, e non aveva capito che andavano munte, che erano pecore sarde. Quindi pian piano abbiamo cominciato a fare da noi e poi ormai è 20 anni che faccio questo lavoro qui. Sono 12 tipi di formaggio e tutto latte di pecora nostra, e siamo arrivati a 650 pecore ora. Senta, ma i primi tempi, diciamo, l'avranno guardata, non dico male, però con molta curiosità nel Chianti a produrre appunto formaggi. Sì, avevo parecchi problemi con i sardi attorno, siciliani, perché appunto 20 anni fa in questa zona qua ci sono tuttora dei sardi siciliani che, insomma, questa inglesina che è arrivata giovane, che non ha, e quindi mi sono buttata un po' parecchio su Firenze. facendo dei formaggini un po' speziati, piccolini, un po' diversi. Diciamo che i sardi sulla pecora sono grandi produttori e bravi produttori, quindi si è messa a fare una concorrenza molto pericolosa, devo dire, sul piano della qualità, sul piano anche così del mercato. Sì, e finalmente ora c'è il sardo che sta vicino a noi e che mi chiede anche dei consigli, quindi fa molto piacere questo. Quindi addirittura siamo arrivati a questo. Senta, e hanno incontrato subito i suoi formaggi? Ma parecchio, era proprio il momento quando sono aperte tutte le enoteche e appunto andavano molto questi spizzichini, queste cosine, prima di andare al teatro, dopo il cinema, per mangiare questi formaggini buoni, speziati, con le muffe, queste cose un po' strane, un po' diverse, non proprio il pecorino classico. Che infatti se uno va in giro a Pienza, San Gimignano, è piena la vetrata di questi pecorini tondi, neri, rossi, gialli, insomma sempre uguali. E invece la mia vetrata è bella, bella diversa, insomma ognuno ha una forma diversa, ognuno ha una morbidezza diversa, eppure viene tutto dal latte stesso, latte di pecora. Bene, rimanga con noi. Oggi arrivano degli sms, come posso dire, stizzosi verso il Chianti, verso appunto i prodotti del Chianti. Non so, forse diciamo c'è un po' di invidia, penso. Ecco. Dice, non importa dove sia nata la finocchiona, sia a Panzano o in Maremma, dice un radioascoltatore, l'importante è che esista addirittura. Un altro risponde, caro gastronauta, il cavolo nero è diffusissimo nel Lazio, ma come fa la ristoratrice a trovarlo d'estate? Rispettare tradizione e territorio significa anche rispettare le stagioni, o no? A me non piacerebbe. Il tavolo nero nell'orto ora. Anche lei ce l'ha il tavolo nero. Sì. Bene, bene, cara Silvia, perché mi si firma anche, e quindi devo dire, dice, a me non piacerebbe trovare nel menù la ribollita in estate. Cara Silvia, come sente, esiste, quindi devo dire che comunque tra il cavolo nero laziale e il cavolo nero toscano probabilmente c'è qualche differenza di sapore dato. Poi altri, molti altri sono, diciamo, nemici del Chianti. Dice, il Chianti vive molto del suo nome, famoso in tutto il mondo, come dire, appunto, solo del suo nome. Ma la verità è che vedo che tutti quelli che, diciamo, sono stizzosi sul discorso del vino e del territorio vinicolo sono in altre aree vinicole, quindi c'è, diciamo, questa invidia. Comunque, che qualcuno che intervenga, lo dica a voce, questa, diciamo, idiosincrasia verso il Chianti, santo cielo. Numero verde 800 24 00 24. Bene, ora abbiamo con noi un altro macellaio, perché devo dire, lo ripeto, nel Chianti ci sono 4 macellerie veramente di grandissimo livello e Vincenzo Chini di Gaiola in Chianti è una di queste. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno signor Davide, è un piacere risentirla. Allora, Vincenzo Chini diciamo è stato un'avanguardia, è stato un pioniere di alcuni del maiale di Cintasenese. Sì, sì. Quando non se ne parlava, lui aveva un allevamento che curava il figlio molto appassionato di questo. Sì, ma sì, Lorenzo. Sì. Ecco, volevo sapere, ma questo allevamento esiste ancora? Certo, questo allevamento anzi si è ampliato, mio figlio ha comprato addirittura dell'altro bosco e ha fatto un recinto molto più ampio e molto bello, in una zona bellissima, sotto, praticamente chiamata Monteluco, in linea d'aria a circa 1,5 km da Gaiole. Senta Vincenzo, ma cosa ne dici di tutto questo proliferare ovunque si trova salumi di Cintasenese? Ecco, specificare una cosa, la cinta vera senese è rimasta pochissima, noi abbiamo ancora la linea diretta, ma per motivi speculativi hanno fatto incroci, spesso offrono cinta senese molto magra che non è cinta senese, perché se offrono cinta senese magra va rifiutata, perché la cinta senese è grassa per principio, per natura. Bene, Chini, poi continuiamo. Sentiamo Piero da Roma, radioascoltatore. Sì. Pronto Piero? Sì, pronto. Mi dica. Niente, volevo fare comunque i complimenti al Chianti Classico, perché è una tradizione millenaria che si riporta in tutto il mondo. Quindi dovremmo essere orgogliosi di avere territori del genere che hanno lavorato in qualità e in immagine, cosa che altre regioni purtroppo per altri motivi non hanno fatto, politiche, economiche, sociali e di produzione stessa. Il Negromaro o il Nero d'Avola erano vini da taglio, soltanto la tecnologia ha portato a crescere. Se si lavora in gruppo l'Italia può dare di tutto, perché tutto il territorio è straordinario e i microclimi sono eccezionali da tutte le parti. Bene, grazie. Questa difesa viene da fuori, quindi viene da Roma, sicuramente, dove il Chianti è molto conosciuto e molto diffuso, comunque viene da fuori. Io torno a Vincenzo Chini e voglio dire, Chini, tutto quel cintasenese che gira, non è che sia grigio e non cintasenese? Non la sento molto bene. Dicevo che tutta la cintasenese che ci viene servita, che ci viene data per certa, non è forse ottenuta dal grigio, che è questo incrocio tra... Con il grigio è un altro maiale, perché la cinta senese, la differenza fra cinta senese e grigio è che la cinta senese, la carne magra di cinta senese è striata di bianco, mentre invece di grasso, cioè, mentre invece l'incrocio rimane ben definito, il magro ben distinto dal grasso, per cui si riconosce benissimo. Bene, hanno fatto degli incroci, cioè hanno preso la femmina di cinta, le hanno dato magari può essere un'ipotesi, il verro bianco, e poi dalla nascita dei maialini riprendono quelli cinti e ridanno il verro cinto, e allora rifanno una cinta un po', come si può dire, mescolata, che non è proprio la cinta che non è vera. Che non è pura. Volevo ricordare di Vincenzo Chini un prodotto straordinario, l'arista stagionata. Ecco, sì, volevo dire una cosa, la nostra arista, perché lei è stato il primo a apprezzare e accorgersi di questo salume veramente eccezionale. Io ricordo benissimo, è stato lei a scoprirlo. Beh, lasciamo perdere questo, Vincenzo, mi fa piacere anche se lo ricorda, ma devo dire, lei è uno dei pochi che fa l'arista stagionata, perché tutti fanno l'arista fresca. Sì, perché veramente ci vuole un accorgimento un po' particolare, che ora mi dispiace, ma io non le posso dire. No, per carità, no, poi non abbiamo neppure il tempo. Sì. Bene, comunque sicuramente ci si rende conto che è molto particolare, che sì, ha un suo segreto. Sì. Io ringrazio Vincenzo, a presto. Va bene, l'aspetto in Chianti, la ringrazio. A presto Vincenzo Chini, grazie a Antonia Ballarin con i suoi formaggi anglo-italiani, diciamo, e con i suoi formaggi di pecora. Grazie Antonia. E passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi e ricordo, numero verde 800 24 00 24, chi vuole intervenire sulla Finocchiona o sul Chianti può farlo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo dopo la diatriba sulla Finocchiona, ora ne abbiamo un'altra, che è quella sul cavolo nero e sulla ribollita. Scrive un radioascoltatore: il cavolo nero lo compro al supermercato a Milano, però vorrei sapere, caro radioascoltatore, in questo periodo o nel periodo, diciamo, autunnale? Questo è un altro problema. E poi ancora mi scrive un altro: la ribollita in estate è come il panettone d'agosto, non esiste. Bene, grazie, perché questa frecciata è sicuramente rivolta anche al sottoscritto. Esiste ancora e ne abbiamo dato dimostrazione quest'estate in tutta Italia. Bene, continuiamo però questo viaggio sempre nel Chianti. Bene, abbiamo con noi un ristoratore che è Salvatore Toscano, del ristorante Mangiando di Greve in Chianti, e a lui chiediamo: Salvatore, ma la ribollita può esistere in questo periodo? Ma buongiorno innanzitutto, io direi proprio di no. In questo periodo si fa delle belle pappe al pomodoro, anche perché per fare una gran buona ribollita ci vuole tanto cavolo nero, e il cavolo nero si sa dal novembre in poi, e dopo una bella ghiacciata ancora meglio, insomma. Quindi per lei dice che in questo periodo è impossibile trovare il cavolo nero nel Chianti? Ma il cavolo nero chiantigiano no, perché ricomincia a fiorire, a essere buono dal novembre in poi. Oggi, ora come ora, non si trova. E comunque quello che viene importato non sa veramente di niente, insomma, sa veramente di poco. Bene, quindi anche qui apriamo appunto questo capitolo. Rimanga con noi Salvatore, sentiamo Felice da Piacenza, un radioascoltatore. Buongiorno Felice. Buongiorno a lei. Prego. Beh, no, le chiedevo, io sentivo Chiti, sentivo altri prima sul Sangiovese, noi non possiamo tirare la coperta sempre dove vogliamo. Se parliamo di genetica, come parla il nostro Vincenzo, va benissimo, ma la genetica c'è anche nel vegetale, quindi non possiamo ora slittare sul territorio e poi, quando ci fa comodo, risalire la genetica. È la genetica che fa i sapori, che fa i profumi, che fa la pianta e che fa gli animali saporiti, la cinta cenese. Poi il territorio conterrà il 2, il 3. Certo che ognuno cerca di tirarselo a casa sua, il territorio, mi perdoni, abbiamo famiglia tutti quanti, ma è la genetica assolutamente nei vegetali e negli animali, ma nel modo più assoluto. Bene, quindi questo è un altro bellissimo interrogativo che viene fuori appunto da queste diatribe che sembrano così semplici, ma in realtà, come ci fa notare Felice da Piacenza, hanno un background veramente interessante da andare ad esplorare. Abbiamo con noi anche una produttrice di vino Chianti, ovviamente Chianti Classico Gallonero, Stefania Canali della fattoria Nittardi. Buongiorno Stefania. Buongiorno Davide Paolini e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Questa azienda è molto particolare perché, appunto, anche questa sono espressioni dei territori, perché diciamo dietro a questa passione del vino c'è una passione artistica che è stata portata anche diciamo nella bottiglia di vino, ma anche diciamo nella sede di questa azienda. Sì, è vero. Ce la racconta Stefania? Sì, va bene, ve la racconto velocemente. Questa proprietà fu anticamente anche una proprietà michelangiolesca e quindi noi ci teniamo ancora ad onorare questa memoria di un illustre proprietario del passato e abbiamo iniziato anche per il lavoro poi che fa mio marito, che è gallerista, editore, insomma abbiamo contattato all'inizio dei pittori che conoscevamo per portare l'arte in etichetta, nulla di nuovo, diciamocela pure. Nuovo forse è la continuità, quindi quest'anno celebreremo il 30° anno continuativo di etichetta e nuova è un po' questa carta sempre del pittore che avvolge la bottiglia, quindi la bottiglia ha sempre due pezzi d'arte, arte numero uno è il suo vino, il suo prodotto, però c'è un'etichetta e c'è una carta avvolta a mano per queste poche bottiglie e quest'anno ci sarà un bellissimo catalogo via via. I pittori vengono da tutto il mondo, sono liberi di fare quello che vogliono, come vogliono, a volte sono molto dissacranti, e a volte anche difficili, a volte bellissimi, romantici, c'è di tutto, c'è tutto il mondo, c'è l'Italia ma tutti gli altri paesi. E in azienda abbiamo iniziato a seminare e a piantare oltre alle viti e in mezzo alle viti le sculture e le opere di questi artisti che arrivano magari d'inverno, arrivano quei tempacci che ci sono in novembre, in dicembre, e si fermano lì e lavorano. Quindi abbiamo una piramide di un artista francese in mezzo a Sangiovese, abbiamo delle sculture stupende di scultori italiani, che accompagnano questo tragitto e questa crescita. La cosa interessante è questa, che appunto Stefania Canali, diciamo che è un arrivo tedesco sul Chianti del marito, Antonia Ballarin sì. È un inglese, quindi questo dimostra appunto questa internazionalità del Chianti. Ma sentiamo Bruno dalla provincia di Lucca, un radioascoltatore. Buongiorno. Niente, ho acceso la radio da poco, sentivo un signore prima che parlava di genetica importante al 98%, 95% sì. Riguardo ai prodotti, mi sbaglio? Sì, sì, è esattamente così. Ecco, allora è un errore, clamorosamente un errore. Cioè le piante hanno naturalmente all'interno dei loro geni delle predisposizioni a essere una maniera o un'altra, ma il terreno, la qualità del terreno, la qualità dell'insolazione, l'esposizione, quello che si dà da mangiare alle bestie per rendere le carni più o meno saporite, più o meno grasse, diciamo rendere il vino più o meno corposo, rendere il vino più o meno a tasso alcolico, rendere il vino più o meno profumato, cioè diciamo quello che vogliamo, però è importantissimo l'ambiente, la genetica conta nemmeno per il 50%. Bene, questa è un'altra. Io sono un perito agrario, Bene. Questa è un'altra bellissima diatriba. Oggi abbiamo assistito a diverse diatribe, ma ora voglio ritornare a Salvatore Toscano. E gli voglio fare una domanda. Mi è arrivato un SMS che mi dice: differenza tra la sbriciolona e la finocchiona? C'è differenza, Salvatore? Non ho capito la domanda. La differenza tra la sbriciolona e la finocchiona? Ma solitamente la sbriciolona è un taglio più grande della finocchiona, cioè una pezzatura un po' più grande che tende a sbriciolarsi. Ora io qui a Greve in Chianti abbiamo una fantastica finocchiona, proprio straordinariamente buona, e rimane molto compatta, cioè addirittura si può affettare. Si potrebbe affettare alla affettatrice, mentre la sbriciolona tendenzialmente si taglia a coltello, insomma, ed è un po' più aromatica che non la finocchiona di Greve, è forse un gusto un po' più aggressivo, però non ci sono grandi differenze, la pezzatura da dove si fa è la stessa, cioè la pancia, certo. Quindi con molto grasso e credo che poi siano più o meno la stessa cosa, certo. Cioè si differenziano in pochissime cose. La sbriciolona, appunto, si chiama la sbriciolona, la primozione sbriciolona, perché quando si taglia a coltello tende un po' a rompersi. Bene. Diciamo così, a tocchi. Salvatore rimanga con noi, sentiamo Marina da Milano. Buongiorno Marina, veloce però, che ho Buongiorno. Poco tempo. Io volevo solo fare una segnalazione di un agriturismo dove siamo andati varie volte, a Castelnuovo Berardenga, che fanno anche il loro ottimo vino, il Chianti, fanno anche il loro olio. Bene. Che si chiama l'azienda agraria e Allegretti. Bene. Proprio in Castelnuovo Berardenga, un posto proprio grazie. Bello. Grazie Marina. Torniamo a Salvatore Toscano. Voglio chiedere se è difficile fare innovazione gastronomica nel Chianti, perché lui è un innovatore, mi dicono, quindi. Scusate, ma non sento bene. Dicevo, se è difficile fare innovazione a tavola nel Chianti. Ma io sarebbe da aprirci una discussione. E credo che la più grande innovazione si possa fare in un territorio come questo è la tradizione, cioè riuscire a rispettarla in tutto quello che è e che deve arrivare in un piatto. Oggi nelle osterie si trova piatti assolutamente tradizionali, molto ben presentati, insomma, a volte un po' alleggeriti, ma poi sostanzialmente io sono un difensore estremo della tradizione, insomma. Quindi, fare la tradizione, farla bene, non in maniera integralista, però insomma un buon piatto nel Chianti deve essere un piatto chiantigiano senza troppi fronzoli, insomma. La tradizione è un'innovazione riuscita, insomma, diciamo così. Sì. Bene, sentiamo Gianfranco dalla provincia di Latina, un radioascoltatore. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno. Io chiamavo a proposito del precedente collegamento che c'è stato, dove un ascoltatore diceva che non conta il luogo quanto la genetica. Secondo me è un errore fondamentale. Io ricordo da ragazzino che andai una volta, ma parlo a fine anni 60, nelle Marche a Visso, e scoprì un salame che non conoscevo, il famoso ciauscolo. Lo portai a casa, a Aprilia, me ne portai 3-4 salami per farli assaggiare agli amici, ai miei familiari. Sì, era buono, ma il sapore non era quello delle Marche. Bene. A tutti sarà capitato di prendere un formaggio, la mangiare la pecora in montagna e poi mangiarcela a mare. Gianfranco, questo è un argomento molto intrigante. Io diciamo, le porto via la parola perché mi mancano pochi secondi a chiudere, però questo il discorso che lei sta affrontando è veramente un discorso molto importante. Ne riparleremo, però devo anche leggere un ultimo SMS perché è conclusivo. Mi associo alle critiche, ma oggi pare che il Chianti abbia l'esclusiva di tutto. Insomma, l'ho detto. Anche questo qui è un veneto che dice che il cavolo nero c'è anche in Veneto. Anna da Rovigo. Bene, come dicevo, c'è qualcosa, diciamo, che il mondo così a contro il Chianti, forse per il suo successo. Sono convinto che il successo dà sempre noia. Bene, io vi ringrazio, abbiamo chiuso questo viaggio nel Chianti, vi do appuntamento domani con Riposo del Guerriero e ogni giorno con la pillola delle 11.05 alle 23.05. Buon weekend da Davide Paolini.